Non mi parlare se sei un infame. Chiamo queste puttane, puttane. Sono in giro per strada con i miei cani. Solo loro sono leali. Se si tratta di soldi allora ci sto. Voglio riempirmi le tasche del G-Star. In giro con i miei fantasmi Casper. Fumando tutta questa olandese Van Basten. Bocca chiusa, non parlo con un infame. Chiamo la tua ragazza puttana. Sono in giro per strada con i miei cani. Non puoi tenerci fermi, non basta un guinzaglio. Un sacco di gente è falsa, non fidarti. Sto cercando i soldi come avessi un radar. Non vuoi un buco nella tua casa, cagarat. Mio fratello ti vede in strada e va ratatatata. Sto a Connin e fumiamo marijuana. Succo di zenzero e poi mi gira la stanza. Metto dietro, ne sta rollando un'altra. Non prendo MDMA se vuoi dallo a Kedama. Sto con la gang gang, tu è meglio se resti a casa. Facciamo a brandelli stronzi senza il karate. Vegetariano perché fumo una pianta. Troia, stai fuori di testa, cosa hai fumato, yabba? Non mi parlare se sei un infame. Chiamo queste puttane, puttane. Sono in giro per strada con i miei cani. Solo loro sono leali. Se si tratta di soldi allora ci sto. Voglio riempirmi le tasche del G-Star. In giro con i miei fantasmi Casper. Fumando tutta quest'olandese Van Basten.